Allora, buongiorno a tutti. Credo che si possa cominciare, forse manca ancora qualche classe, ma comunque altrimenti viene troppo tardi. Con oggi si conclude questo breve ciclo di tre lezioni che quest'anno, diciamo anche fortunatamente, appunto verteva sul tema della guerra e della pace, no? Le prime due lezioni, come voi già sapete, sono state quelle della professoressa Seidel Menchi, che ci ha parlato di Erasmo e di come Erasmo guardava la guerra, e poi quella del professor Schiera, che ha giocato intorno al tema della pace interna e della pace internazionale in età moderna. Oggi invece affrontiamo un tema del tutto diverso, legato, come dire, ai lutti che la guerra porta. Il professor Rasera ci parlerà infatti della Grande Guerra. Rasera è uno dei migliori conoscitori del tema, anche per quanto riguarda quest'area, l'area trentina. Io lo ringrazio molto, lo ringrazio anche a nome del professor Schiera, che non è potuto essere presente, e gli do subito la parola. Mi vedo molto lontani, vabbè. Dunque, io vi dico intanto come ho organizzato il mio discorso. Ripercorro una traccia che avevo già pronta per una conversazione che è stata fatta in questa stessa sede qualche mese fa e che aveva come argomento la guerra come fenomeno di massa. È una traccia che prende in considerazione anche una certa evoluzione degli studi sulla guerra, in particolar modo sulla Grande Guerra, in particolar modo al centro una nuova storiografia che si occupa in particolare della soggettività dei protagonisti della guerra come esperienza mentale e sensoriale, non tanto della guerra da un punto di vista militare o da un punto di vista politico. Sia chiaro, da parte mia scegliere questo taglio non significa togliere valore a questo diverso approccio al problema della guerra che viene dagli studi di storia militare o di storia politica. Vuol dire cercare di valorizzare ai vostri occhi i problemi e i risultati di queste ricerche storiografiche relativamente recenti e vuol dire anche essere fedele con quello che è il mio campo di interessi, perché se devo essere sincero, Blanco vi ha detto che io sono un esperto della Grande Guerra, ma in realtà della storia militare della guerra so pochissimo. Molti dei miei amici che senza praticare la storia hanno però interesse per i campi di battaglia, per gli avvenimenti eccetera, sanno un'infinità di cose in più di quante io non sappia. Ecco, ve lo dico perché non vi aspettiate da me competenze che non ho. Io invece sono interessato, perché a un certo punto è stato un incontro che ho fatto nella mia storia, diciamo, di persona che si interessa, da dilettante appassionato alla storia, è stato l'incontro con le molte facce delle testimonianze di questa esperienza della guerra che mi sono sembrate straordinariamente ricche e quindi a un certo punto hanno convogliato i miei interessi e quelli di altri che lavorano con me. Parto da una citazione. La citazione è da un testo inedito, anzi, edito in un bollettino parrocchiale della Valle Rendena, di un maestro trentino, tal Guerrino Botteri, un maestro colto, intelligente, che combatte come gran parte dei trentini mobilitati nella Grande Guerra in Galizia, questa regione che allora costituiva una parte del fronte orientale della guerra, che fu coinvolta in particolar modo nei primi mesi di guerra in combattimenti molto sanguinosi e che vedeva contrapposto l'esercito austro-ungarico a quello russo. Vi leggo la sua pagina di diario del 17 ottobre del 1914. La mattina del 17 ottobre mi trovò insonne, ammaccato, ingranchito nel mio posto. Giornata di paura folle, quella del 17. Una paura come quella che prende qualcuno di notte e lo strazia con un tormento a cui non può ribellarsi. Tutto il giorno stemmo rinchiusi in quel campanile che era diventato bersaglio delle granate, degli shrapnels nemici, senza che noi potessimo né muoversi, né vedere, né sparare. Rombavano scoppiando le granate intorno alle assi che tremavano. Con un grido secco e rotto ci caddero sul capo più volte le assi rotte del coperto. Fuori, a un metro sopra il nostro capo, ci dicevano che di lì passarono un pallotto le avide del nostro sangue. E noi fermi, aspettando inoperosi la morte, quasi gruppo di cristiani oranti nel Colosseo, in attesa delle avide zanne delle belve affamate. E adesso viene la parte su cui volevo farvi in particolar modo riflettere. La guerra moderna ha questo di spaventosamente triste. L'individualità sparisce. Si diventa gocce di una fiumana di lava che lentamente, con moto fatale, si spinge in avanti, s'arresta, retrocede. Le gocce non contano nulla. Se una si ferma, si agghiaccia, si perde, nessuno ci bada. Se quella goccia stride, cigola prima di spegnersi, il suo grido è sopraffatto dal cigolio spumoso, enorme, del fiume. Si tratta di una citazione molto interessante. Voi capite che l'autore non è in realtà uno di quegli letterati che spesso hanno consegnato ad agendine e taccuini dello stesso tipo la loro memoria dell'esperienza di guerra, ma è uno scrittore volutamente raffinato, con qualche eco letteraria, magari anche un po' scolastica, come forse ci si può aspettare da uno che di mestiere fa l'insegnante. E questa fiumana che sommerge i vinti evoca nella nostra memoria la prefazione berghiana dei Malavoglia, e nelle altre pagine di questo taccuino ci sono frequenti echi di pagine allora famose, ora dimenticate, di un libro di De Amicis sulla vita militare. Ciò non toglie che si tratti di una pagina di grande lucidità, che ci propone alcuni dei temi interessati da questa conversazione. I caratteri nuovi di una guerra moderna, sostenuta da tecniche distruttive di particolare potenza ed efficacia. Il senso di perdita dell'individualità nelle nuove condizioni del combattere. Le pagine successive, che per non fare troppo lunga la citazione vi ho tagliato, il contatto, contaminazione con l'esperienza della morte come elemento centrale dell'esperienza di guerra. E poi c'è questo fatto sul quale vi invito a riflettere. Nel momento stesso in cui l'esperienza accade, questo suo protagonista già la fa diventare scrittura. Fa cioè di questa esperienza una intensa elaborazione culturale. Per lui la guerra è nello stesso tempo esperienza fisica, diretta, di contatto con la distruzione di questi nuovi mezzi tecnici, con questi armamenti spaventosi, è contatto con la ferita e con la morte, è pericolo, ma è nello stesso tempo anche una rielaborazione interiore, e questo non riguarda solo lui, ma riguarda tantissimi protagonisti di questa esperienza, anche protagonisti tra quelli che apparivano come illetterati, poco alfabetizzati, che comunque sentono fin dal primo momento che questa esperienza è qualche cosa che li tocca in profondo, che va in qualche modo rielaborata nella memoria. Insomma, voglio dirvi che lo studio della soggettività attraverso la guerra di massa ha una sua particolare centralità. La guerra è anche esperienza culturale e mentale, quella che la tradizionale storiografia militare e diplomatica non è in grado di considerare. Io invece cerco di parlarvi proprio del lavoro che a questo proposito è stato fatto negli anni recenti, e quindi avrete un po' di pazienza anche se vi citerò diversi libri che fanno un po' da anelli della catena di un lavoro collettivo della storiografia, in modo che voi possiate vedere anche lo spostarsi delle prospettive e i problemi aperti. Prima però voglio fare qualche altra citazione che ci permetta, per via breve, diciamo, per via di suggestione, di collocare nella storia questo tema, la guerra come fenomeno di massa. A partire da quando possiamo trovare questo mutare della guerra, questo trasformarsi in un fenomeno di quantità e di qualità diverse rispetto a quelle del passato. E lo faccio attraverso una citazione di uno scrittore reazionario del primo Ottocento, che probabilmente agli studenti di Quinta è già noto dai loro manuali di storia, dai loro insegnanti, il savoiardo De Maistre, che scrive nel primo Ottocento, che trovate nei vostri libri come uno dei principali rappresentanti del pensiero della reazione. Nelle sue serate di San Pietroburgo, questo laudatore dell'Ancien Régime parlava in questi termini delle guerre del passato confrontate a quelle del suo tempo. Ci si uccideva, senza dubbio, si bruciava, si distruggeva, si commettevano pure, se volete, mille e mille crimini inutili. Tuttavia si cominciava la guerra nel mese di maggio e la si finiva a dicembre, si dormiva sotto le tende, il soldato combatteva soltanto il soldato. Le nazioni non erano mai in guerra e tutto ciò che era debole, vuol dire le nazioni non erano in guerra, erano gli stati, no? Erano gli eserciti che erano in guerra, non popolazioni intere contro altre popolazioni. E tutto ciò che era debole era considerato sacro nelle lugubri scene di quel flagello devastatore. E più avanti, nessuna nazione trionfava sull'altra. Una provincia, una città, spesso anche qualche villaggio ponevano fine a guerre accanite cambiando signora. Il mutuo rispetto, la cortesia più raffinata sapevano mostrarsi anche tra il fragore delle armi. La bomba evitava il castello del re. Danze e spettacoli servivano sovente da intermezzo fra una battaglia e l'altra. L'ufficiale nemico, invitato a quelle feste, veniva a parlare ridendo della battaglia che si sarebbe combattuta il giorno dopo. E perfino nell'orrore della più sanguinosa mischia, l'orecchio del morente poteva ascoltare accenti di pietà e formule di cortesia. È una citazione che prendo da un brillantissimo saggio di Roger Caillaux, scritto nel 1950 e ora ripubblicato da poco in Italia col titolo La vertigine della guerra. Un saggio molto interessante e straordinariamente pertinente rispetto ai temi non solo di questa nostra conversazione, ma anche del dibattito che si è fatto sulla natura della guerra, a caldo, drammaticamente a caldo, nei mesi scorsi. Non prendiamo troppo sul serio questa rievocazione di De Maistre. La guerra era terribile anche prima della guerra moderna. Voi che avete sentito questa lezione su Erasmo, immagino avete avuto occasione di confrontarvi con questa immagine delle guerre, peraltro nuove di quel periodo, e quelli che a scuola si sono letti o il Parlamento di Ruzzante o la voce guerra nel dizionario di Voltaire o i romanzi settecenteschi così ricchi di racconti di battaglie che sconciano i soldati, li mutilano, fanno strage delle loro carni, sanno che la guerra non era solo festa e gioco, era anche massacro. È vero però, l'intuizione, era l'intuizione di fondo. Si trattava di guerre di soldati e questi soldati erano un corpo professionale ed esclusivo, cui questo momento centrale della civiltà era affidato. C'è a un certo punto un salto, quando, secondo Caillaux, lo spartiacque tra quel passato e il suo presente è nell'Europa della Rivoluzione francese. È con la Rivoluzione francese che la guerra cambia natura. Il soldato non è più l'elemento di un corpo mercenario cui è affidata questa risoluzione dei conflitti, ma è il soldato cittadino, sottoposto alla mobilitazione generale. Questo naturalmente dà al soldato anche nuova dignità. Le due figure, soldato e cittadino, si illuminano reciprocamente di una nuova dignità. Cito qui di nuovo Caillaux: il soldato e il cittadino nascono contemporaneamente. Il contadino, il miserabile abituato a tacere e a soffrire, non prende coscienza della sua importanza che il giorno in cui gli si mette un fucile tra le mani e lo si chiama a difendere la nazione, e in cui i pericoli che affronta, come la morte che arreca, gli dimostrano con un'evidenza lampante che egli è sicuramente uguale al nobile e al privilegiato. Non è per caso che repubblicano e patriota sono termini sinonimi. Il cittadino accede ad una dignità nuova tanto con la coscrizione che col diritto di voto. L'uniforme e la scheda elettorale sono i segni visibili e le garanzie dell'uguaglianza che egli ha appena conquistato. Quindi non va dimenticato questo aspetto, chiamiamolo paradossalmente progressivo, di questa nuova guerra che vede mobilitata l'intera nazione. È un segno dell'avanzare della democrazia. Non è più il guerriero per mestiere o prima per casta che ha il monopolio della guerra, ma l'esercito diventa qualcosa di strettamente connesso con la nazione. C'è naturalmente poi il rovescio di questo, ed è il carattere, c'è qualcosa, ed è il carattere totale, il carattere di la potenza che investe, la potenza che investe l'intera popolazione mobilitata del fenomeno guerra. Nel saggio di Caillou sono presenti molti spunti anticipatori e produttivi, da un'analisi del carattere sacro che la guerra assume proprio in questo nuovo contesto moderno. C'è un nuovo patriottismo, un nuovo senso della nazione, una nuova sacralizzazione della guerra, e poi la forte analogia tra la guerra moderna e i caratteri della festa. E secondo questo studioso sono elementi tuttora operanti anche dopo la tragica parabola della Seconda Guerra Mondiale, dopo Auschwitz e dopo Hiroshima. E indubbiamente la riedizione di questo libro è sembrata di un'attualità particolarmente inquietante nel contesto, è uscito proprio negli ultimi mesi dell'anno scorso, a ridosso della drammatica nuova attualità della riflessione sulla guerra. Noi però adesso ci spostiamo verso ragionamenti, verso opere, verso autori più vicini a quella che chiamiamo di solito storiografia. Anche se si tratta sempre di una storiografia originalmente intrecciata con le suggestioni e col linguaggio delle cosiddette scienze umane. È abbastanza evidente, non c'è bisogno nemmeno che vi faccia una spiegazione troppo didascalica, è abbastanza evidente che studiare la soggettività dell'esperienza di guerra vuol dire fare i conti con le categorie della psicologia e della psicoanalisi, che parlare di cultura, atteggiamento mentale, aspetti rituali, vuol dire entrare nell'ambito dell'antropologia culturale e di altre discipline con cui peraltro la storiografia del nostro tempo, è una cosa che probabilmente conoscete, è indotta sempre più spesso a fare i conti con dei cui linguaggi e delle cui domande si è arricchita in maniera evidente. Anche se questo è accaduto meno per la storiografia contemporaneistica di quanto non sia accaduto per quella delle età precedenti, perché queste categorie di solito richiedono una dimensione di lungo periodo, e mentre la storia contemporanea è stata affidata fino a tempi recenti piuttosto al racconto degli eventi, alle categorie della politica, e ha subito meno che per esempio la medievalistica questo incontro con le scienze umane, ma proprio in questo ragionamento sulla guerra invece si può dire che questo incontro sia diventato più stringente. Ed è il caso del libro di uno studioso di cui adesso vi parlerò abbastanza a lungo, George Mosse, Le guerre mondiali dalla tragedia al mito dei caduti. Un libro dell'anno scorso, anche questo mi sembra uscito in una situazione che lo rende particolarmente interessante ed attuale. Si tratta di un autore molto noto per lavori sulla cultura del nazismo, sull'antisemitismo, sui miti e i riti dei nazionalismi moderni. E in questo libro riprende molti temi dei precedenti, ma mettendo a fuoco in modo particolare il discorso sull'esperienza di guerra. Quindi ve lo racconto un attimo. Qual è il suo oggetto? Uso parole sue. È il come gli uomini hanno fatto fronte alla guerra moderna e le conseguenze di questo confronto. L'incontro con la morte di massa è forse la più fondamentale esperienza della guerra. Esso sta al centro di questo confronto e dunque anche dell'analisi dell'autore e del libro. Perché al centro del libro sta la Prima Guerra Mondiale e non altre guerre? Perché, scrive Mosse, qui l'incontro con la morte di massa assunse una dimensione nuova. E le conseguenze politiche di questo incontro ebbero ripercussioni di vitale importanza sulla lotta politica del periodo tra le due guerre. La Prima Guerra Mondiale, quindi, come esempio per eccellenza della guerra moderna, della guerra come fenomeno di massa. C'è un terribile dato nuovo quantitativo. Nella Prima Guerra Mondiale morirono circa 13 milioni di uomini. Un numero più che doppio rispetto al totale dei caduti in tutti i conflitti di rilievo svoltisi tra il 1790 e il 1914. Quindi voi capite che se in un secolo e mezzo le guerre pur significative che si sono svolte, pur guerre di tipo nuovo, pur guerre che anch'esse impiegavano artiglierie e tecnologie nuove, no, hanno dato in totale meno della metà dei morti nella Prima Guerra Mondiale, siamo di fronte ad un dato che anche quantitativamente legittima questa percezione di una novità terribile dell'evento. Però questo aspetto quantitativo si intreccia con aspetti anche, chiamiamoli, qualitativi. Essa, è sempre Mosse che scrive, fu la guerra di un'età tecnologica, con nuovi e più efficaci mezzi di comunicazione, che contribuirono a diffonderne l'immagine e a stimolare l'immaginazione. Ma la cosa più importante di tutte fu il fatto che il conflitto introdusse, in particolar modo sul fronte occidentale, una nuova maniera di combattere, la guerra di trincea, per capirci, la quale influenzò il significato che la guerra avrebbe avuto nella vita della maggioranza dei soldati. L'esperienza della trincea determinò non soltanto la percezione della guerra di coloro che la combatterono, ma anche l'immagine che della guerra si fecero le successive generazioni. Insomma, nel discorso di Mosse il ragionamento è questo. La guerra, la Prima Guerra Mondiale, è qualcosa di radicalmente nuovo, non solo per la potenza distruttiva che fu messa in atto, ma per il modo in cui la guerra fu vissuta e rappresentata. Devo dirvi una sensazione, anticipando qualche cosa che avrei dovuto dire dopo, ma per farvi capire quanto questa affermazione abbia fondamenti di verità, che leggendo l'ultimo libro importante che è uscito su questo argomento, che è L'Officina della Guerra di Antonio Gibelli, di cui dopo vi parlo, io ho avuto, e con me molti altri lettori, la sensazione assolutamente impressionante e spaesante di star leggendo un libro sulla guerra del Golfo. La guerra del Golfo è stata straordinariamente nuova per molti aspetti, però è vero che gran parte dei fenomeni nuovi che abbiamo registrato come tali, assistendo in maniera così, no, nello stesso tempo partecipe, conflittuale, inquietante a questo conflitto recente, e quegli aspetti nuovi trovano le loro radici molto spesso proprio in quello che nella Prima Guerra Mondiale fu messo in atto. Su questo però torniamo. Voglio prima raccontarvi il libro di Mosse, il quale si chiede, anche lui, innanzitutto, quali sono i precedenti, le origini storiche, non solo del nuovo modo di fare e vivere la guerra, ma di quel vero e proprio mito dell'esperienza di guerra che andò costruendosi nella Prima Guerra Mondiale, fino a dar vita ad una sorta di nuova potente religione patriottica e bellicistica. I precedenti, dice Mosse, sono innanzitutto nelle guerre della Rivoluzione Francese 1792-1799 e nelle guerre di liberazione antinapoleoniche del 1813-1814. È lì che nacque quello che lui chiama appunto il mito dell'esperienza di guerra. Un mito che appagava un bisogno ignoto alle guerre precedenti. Guerre, come abbiamo già detto, combattute da eserciti mercenari, ai cui occhi la causa per cui si battevano significava assai poco. E che sapevano come prendersi cura di sé e come evitare di esporsi senza necessità ai pericoli del campo di battaglia. Invece le guerre rivoluzionarie furono le prime combattute da un esercito di cittadini, originariamente costituito in buona parte da volontari devoti alla loro causa e alla loro nazione. E i caduti di queste guerre erano compagni d'arme, erano i figli o i fratelli di qualcuno che si sarebbe potuto conoscere. Era dunque necessario legittimare e giustificare il loro sacrificio. È in questo bisogno di giustificare il sacrificio che, secondo l'autore di questo libro, si radica il mito dell'esperienza di guerra e in esso i volontari, questa elite dei combattenti, svolsero un ruolo particolare di artefici di miti. E tra questi artefici di miti, del mito dell'esperienza di guerra, Mosse cita gli intellettuali impegnati in quelle vicende, per esempio il poeta Byron, che, combattente per la libertà della Grecia, contribuì grandemente alla costruzione del mito della bellezza e della grandezza dell'autoimmolazione sul campo di battaglia. Anche nella Prima Guerra Mondiale ci furono i volontari, pochissimo nel nostro paese per la verità, di più in altri, per esempio in Germania, solo volontari, voi sapete, l'esercito inglese, e tra questi molti giovani intellettuali che contribuirono quindi a radicare, a costruire su più ampia scala questo mito. Quali sono gli elementi positivi, positivi qui sta tra virgolette, nel senso di gli elementi di vitalità, che scatenarono l'entusiasmo dei giovani intellettuali che nell'agosto 14 partirono per i fronti della guerra? Cosa costruì quella che da un altro studioso è stata definita la comunità di agosto? Agosto è il mese della grande mobilitazione generale. Comunità di agosto, nelle parole di questo studioso, vuol dire questo entusiasmo che coglie centinaia e migliaia di giovani, specialmente di giovani colti, sui due fronti della guerra, indifferentemente, e che fa sì che per loro l'esperienza della guerra non sia solo coercizione, non sia soltanto un inevitabile prodotto di conflitti non risolti o no, un'imposizione dei potenti, ma invece un'esperienza a cui partecipano come la grande occasione della loro esistenza, come un qualche cosa di non solo accettato ma voluto, desiderato. Elenchiamo alcuni degli elementi che concorsero, secondo l'analisi di Mosse, a questo entusiasmo, dei quali una parte vi sono probabilmente anche noti. L'atmosfera culturale che aveva preceduto la guerra, i miti della velocità, del dinamismo, del nuovo, di cui erano interpreti in modo particolare le avanguardie artistiche. La concezione della guerra festa, come liberazione dalla vita quotidiana, dalla noia della routine che angosciava in modo particolare i giovani della classe media. Il conflitto con gli anziani, con l'autoritarismo soffocante della famiglia e della scuola. Il nuovo culto della giovinezza. Il sogno della creazione di un uomo nuovo, che mettesse fine a ciò che agli occhi di quei giovani appariva come l'ottuso autocompiacimento, la tirannia e l'ipocrisia dei borghesi. La ricerca della virilità come ideale estetico e morale. Il fascino dell'ideale della comunità, comunità nazionale e comunità generazionale, in contrapposizione alla solitudine dell'individuo nel mondo moderno. La comunità dei pari, dei coetanei, la comunità dei maschi guerrieri, la comunità regionale che si veniva a riformare dentro l'esercito e così via, la comunità nazionale, la patria. Il bisogno di autenticità nell'incontro col soldato comune e con la natura è un tipico movimento che troviamo in modo particolare negli scritti di molti anche letterati italiani, appassionati interventisti nella Prima Guerra Mondiale, no? Che ripudiando appunto la condizione di separatezza dell'intellettuale, la sua difficoltà ad avere relazioni ampie con la società, vedevano in questo nuovo incontro col popolo e in questa nuova, tra virgolette, autenticità del rapporto con le cose, con la natura, una sorta di riscatto. Insomma, è un elemento comune tra molte di queste motivazioni, la convinzione di poter trascendere nell'esperienza della guerra quello che veniva chiamato il materialismo borghese. Sono temi che circolano per la cultura europea in quegli anni, particolarmente forti, direi, in Germania, ma molto presenti anche in Italia e anche tra i giovani intellettuali italiani, e su questo poi magari un attimo torniamo. Voi direte, ma questo riguarda un'elite, riguarda una piccola parte della società, e questo è senz'altro vero. Anche lo studioso che abbiamo preso come filo conduttore di questa prima parte dell'esposizione, Mosse, sa benissimo che questi valori, chiamiamoli così, appartengono ad un'elite che è però quella, fu quella, che concorse principalmente a scrivere versi e prose, a scattare fotografie, a fare discorsi e, a guerra finita, a pubblicare i suoi ricordi riordinati e depurati. In poche parole, l'immagine culturale della guerra è in gran parte costruzione di questa elite, quindi noi la dobbiamo prendere approfonditamente in considerazione, al di là di quella che potrebbe sembrarci una sua scarsa rappresentatività quantitativa, ma è l'influenza complessiva che essa ebbe che la rende di assoluta centralità e rilevanza. In un altro capitolo centrale del suo libro, dal titolo Il culto del soldato caduto, Mosse indica i modi in cui l'esperienza della guerra è stata sacralizzata. Quando si adopera questo è stata, vuol dire da subito. Stiamo parlando di fenomeni che avvengono nello stesso tempo in cui la guerra si manifesta. Per questo ne parliamo non come qualche cosa che avviene dopo, ma come qualche cosa che avviene essenzialmente alla guerra stessa. Il soldato caduto diventa il soggetto di un gioioso sacrificio. Si crea una sorta di nuova religione di massa dei caduti che utilizza in modo originale tanto temi classici il dulce et decorum est pro patria mori che temi cristiani. Contro la paura della morte e del morire, contro il senso di perdita si afferma questa religiosità patriottica. Voi forse pensate che stiamo parlando di qualche cosa di lontano e di astratto. In realtà, se voi, come succede quando ci si concentra su un oggetto, guardate con questo occhio i luoghi, no, cui siete abituati, vi potete accorgere di quanto questa religiosità patriottica abbia impresso i suoi segni anche nei luoghi a voi più consueti. La vostra città, dico così perché la mia è Rovereto, non è tanto lontana, ma insomma, sarei più svelto a farvi l'esempio di Rovereto, ma insomma la vostra città fin dal monumento a Battisti che coglie lo sguardo di chiunque ci arriva da lontano, ma poi nei monumenti ai caduti che stanno in molte situazioni, nelle dediche di aule che trovereste in molte vecchie scuole, no? Ne è un esempio. La mia Rovereto, da questo punto di vista, ne è addirittura impressionantemente interessata, dall'ossaria di Casteldante a questo monumento originale della campana dei caduti, all'esistenza dentro l'edificio più importante della città, che è il castello, di un museo della guerra, alla presenza di innumerevoli lapidi e segni di questa, chiamiamola, religiosità civile della guerra, fino a un'infinità di altre manifestazioni che, quando si guardano le cose con attenzione, poi ci ritornano presenti. I cimiteri di guerra e i monumenti ai caduti diventano quindi i luoghi del nuovo culto e delle sue ritualità. Se voi girate l'Italia, la cosa deve essere ancora più impressionante in un paese che io non conosco, sono purtroppo un paesano, in Francia, voi trovate che l'unico segno monumentale civile che è ovunque presente, come in ogni luogo abitato è presente una chiesa, è il monumento ai caduti. In tutte le piazze, non è detto che sia sempre la piazza più centrale, ma in tutte le città d'Italia ed anche in ogni più sperduto centro, voi troverete, piccolo o grande, imponente o meno, invadente o meno, il monumento con la sua lista di caduti del luogo. Una espressione monumentale di massa straordinaria che nacque quasi da subito. Tratti comuni delle nuove sepolture sono la separazione dei morti in guerra da tutti gli altri, l'uniformità delle tombe, su cui potremmo aprire una riflessione molto lunga su che cosa significhi. A proposito di questi moderni sepolcri, il disagio riguardo ad ogni aspetto individuale della sepoltura. Diverse invece sono le scelte delle simbologie. La croce del sacrificio, la pietra della rimembranza nei cimiteri inglesi, i boschi degli eroi e le rocche dei morti in Germania, con un nesso quasi panteistico con gli alberi e le pietre. Una liturgia comune del culto dei caduti fu l'assunzione in luoghi centrali delle grandi capitali del monumento e del culto al milite ignoto, su cui crepe anche una ricca, immaginosa ritualità. Un'analisi dei monumenti ai caduti e delle loro simbologie, come delle loro scritte, potrebbe essere uno straordinario esercizio anche scolastico. C'è una scuola media del nostro, la vostra regione, quella di Mori, cui un insegnante che si è appassionato a questa tematica fin troppo, perché mi pare che è diventato a un certo punto una sua ossessione, che lo ha portato anche dure polemiche sulla stampa con vecchi generali sostenitori, insomma, del culto della patria, ha schedato insieme con i suoi studenti tutti i monumenti ai caduti del comprensorio della Vallagarina, poi ha fatto un lavoro analogo anche per quello del Basso Sarca, con risultati enormemente interessanti per capire, no, che concezione della guerra passa e attraverso le figure, attraverso l'iconografia e attraverso le scritte, individuando anche poi alcuni aspetti interessanti di una vera e propria lotta delle memorie per quanto riguarda poi chi ha voluto quei monumenti. Urbanisticamente collocati e in definitiva perché sono così. Un filo di ricerca, un filone di ricerca, filino per adesso, ma insomma un filone perché cose del genere si fanno anche in altri paesi, molto suggestivo, che si presta insomma a ricerche delimitate ma molto ricche. Un'altra serie di spunti affascinanti che possiamo trarre dal libro di Mosse è quello che riguarda l'appropriazione della natura nella Prima Guerra Mondiale. Paradossalmente, mentre la guerra con il suo immane potenziale distruttivo assassinava i boschi, violava i territori più incontaminati, pensiamo alla guerra in alta montagna, i segni che tuttora vi ha lasciato, quella cultura del mito dell'esperienza di guerra di cui vi parlavo idealizzava la natura e la vita autentica che il combattente poteva condurre nel contatto diretto e continuato con essa, lontano dall'artificiosità urbana. Ed è in questo contesto che nasce, o perlomeno cresce, si moltiplica, quella sorta di culto dell'alpinismo e della montagna, il contemporaneo mito della montagna e dell'alpinismo. Anche questa potrebbe essere una bella direzione di ricerca. Ci sono anche degli spunti abbastanza interessanti. Per esempio, da alcuni anni si svolge un convegno estivo a Sesto Pusteria su questi problemi, in cui studiosi di area tedesca, austriaca, sudtirolese di lingua tedesca e di area italiana si confrontano su questo tema della guerra in montagna, e in quelle occasioni sono usciti anche molti interessanti spunti di ricerca su come sia cambiato l'alpinismo, il modo di raffrontarsi alla montagna, e anche il turismo, il modo di fruire la montagna attraverso questa influenza del mito della guerra in montagna. Dice Mosse: la montagna si presenta come luogo di elevazione, di purezza, al di sopra del materialismo della società di massa. È la conquista delle vette come surrogato della guerra in tempo di pace. Si potrebbe anche rovesciare, naturalmente, la guerra è un'esplosione di quello spirito agonistico e sportivo che può aver dato vita alla conquista delle vette in tempo di pace. Un altro tema molto suggestivo e terribilmente attuale è il mito dell'aviatore. Anche questo elaborato molto fortemente nella Prima Guerra Mondiale. L'aviatore visto come uomo nuovo, non soggetto ai vincoli della guerra di massa, il fango della trincea, l'immobilità della prima citazione da cui sono partito. L'aviatore invece come cavaliere del cielo, non solo nel senso dell'etica particolare che contraddistingueva le battaglie aeree, ancora in qualche modo paradossalmente cavalleresca, lo scontro uno contro uno nei cieli di allora, questo mettersi individualmente in causa, e quindi il mito del grande aviatore, no? Il barone rosso, Baracca. Ma l'aviatore poi come moderno cacciatore, colui che non soggiace ai vincoli terrestri, ma si muove, come diceva Saint-Exupéry, su una scala cosmica. Ora, questo ci può sembrare in qualche modo paradossalmente comico, pensando a quelli che erano i veicoli su cui si svolgevano, no, queste battaglie. Bisogna dire che però l'idea della guerra aerea come guerra nuova e il culto anche degli oggetti di questa guerra aerea si è poi diffuso fino a quello che accade adesso. Certo, la cosa ha cambiato segno, ha assunto un carattere diverso, di massa e puramente tecnologico, però il mito della guerra aerea a cui ci siamo trovati di fronte in questi mesi ha prodotto, per esempio, pubblicazioni, ce n'è una sotto gli occhi che mi ha lasciato assolutamente esterrefatto, in cui le foto della guerra del Golfo sono tutte queste guerre celesti di questi, no, aviatori che cavalcano queste mostruose, volutamente, prodigiose armi tecnologicamente raffinatissime, che configurano un paesaggio bellico del tutto nuovo, che però i letterati e i testimoni della Prima Guerra Mondiale avevano intuito, avevano in qualche modo intuito. Chiudo un attimo su questa parte per dirvi che questi spunti sulla soggettività del combattente, visti dal punto di vista soprattutto del combattente colto, Mosse li trae da lavori d'altri, e in modo particolare da due libri che voglio almeno avervi citato in questa conversazione, anche se non potrò parlarvene per esteso. Sono il libro di uno studioso a metà strada tra storia e letteratura inglese, che si chiama Paul Fussell, autore di un libro che si intitola La grande guerra e la memoria moderna, e l'altro di uno studioso americano, Eric Lead, di origine scandinava, e il libro ha il titolo suggestivo di Terra di nessuno, due libri pubblicati negli anni 70 nel paese in cui sono stati concepiti, in Inghilterra, uno negli Stati Uniti l'altro, ma ambedue proposti in Italia a metà degli anni 80, influenzando tantissimo gli studi italiani e anche non solo gli studi, direi il modo di avvicinarsi al fenomeno anche in senso più largo. Sono due libri di cui non vi posso parlare molto dettagliatamente, ma vi dico qual è il loro metodo. Il metodo è quello di indagare dentro la produzione soprattutto letteraria sulla guerra, assumendo la letteratura come una fonte particolarmente preziosa di questo modo nuovo di fare storia. Non perché la letteratura sia, no, documentariamente, naturalmente, inappuntabile. Se voi cercate in Soffici o in Malaparte o in Junger o in Remarque gli eventi della storia militare, è chiaro che non ci siamo, può darsi che qualche caso servano per ricostruire meglio l'atmosfera anche di un specifico fronte o combattimento, ma sono soprattutto opere che ci danno elementi preziosi di scavo sull'immaginario della guerra. Ma questo immaginario, è dall'inizio di questa lezione che cerco di dirvelo, fa parte dell'esperienza di guerra. La guerra è nello stesso tempo quello che uno vive, ma anche come uno la vive. Questo mi pare che spero di riuscire a comunicarvi in questa conversazione. Fa parte dello studio della guerra non soltanto quello che materialmente accade, ma quello che accade nella testa e nei sensi e anche nell'immaginazione e anche nei sogni di coloro che la vivono. E questo è, certo, no, un elemento che sfida le tecniche, le metodologie della storia, lascia aperta la discussione poi sulla legittimità delle operazioni, sulla loro fondatezza, eccetera. Ma in questi due libri, in maniera molto differenziata, con tecniche diverse, con fonti diverse, si cerca di fare questa indagine arrivando ad un risultato che io sintetizzo in un modo così rozzo che gli autori non potrebbero mai accettare, ma insomma Nel caso di Fassel, quello che ci si riesce a dire è che la guerra modifica in profondità la nostra percezione anche sensoriale della realtà. È un terremoto anche all'interno del linguaggio, il linguaggio stesso ne viene profondamente influenzato, ma ne vengono influenzate altre cose, per esempio la percezione del tempo, la percezione del paesaggio. Scusate se faccio due paragoni che non stanno né in Lied né in Fassel, stanno nella mia memoria di vecchio insegnante di scuola e forse sono più semplici per me, ma anche in questo momento per voi. C'è una famosissima poesia di Montale, In ossi di seppia, che si intitola Valmorbia, che è un paesino della Vallarsa, una delle due o tre che in tutto il corpus della poesia montaliana hanno a che fare con la sua esperienza di soldato lì, nella Prima Guerra Mondiale. Un'altra molto bella è Nelle occasioni. Questa Valmorbia conclude così, con un verso apparentemente innocente, di non particolare pregnanza, e nella memoria paese dove non annotta. La guerra è stato questo, il rovesciamento del giorno e della notte. Ci sono pagine bellissime di Fassel su cosa significa per il soldato l'alba. Non è più la stessa cosa, no? di ciò che inaugura una giornata del ciclo vitale, del sole, della luce, che consentono la ripresa del lavoro, eccetera. L'alba è la fine dell'angoscia, della notte attraversata dai bombardamenti, attraversata dalle operazioni più temibili dei combattimenti. Il giorno da questo punto di vista è più riposante e rassicurante. E per passare ad un altro poeta usuale nell'armamentario scolastico, Ungaretti, senza citare tante altre cose che si potrebbero citare, ricordo uno dei tanti testi dell'Allegria, in cui Ungaretti ci comunica il senso del mutamento, della trasformazione del paesaggio, delle sensazioni che avviene attraverso, dentro la guerra. A un verso che in questo momento mi sta appiccicato alla memoria senza nemmeno ricordare il titolo del componimento in Allegria, ma il verso è questo: un riflettore mette un mare nella nebbia. Cosa che quando provavamo a leggerlo con i miei studenti cercavamo di capire esattamente questa metafora, come si formasse, ma quello che ci allora, mi ricordo, insomma, ci mancava forse è quello che poi hanno messo in luce studi come quelli appunto di Mosse o adesso di Gibelli e di altri, sullo sconvolgimento delle sensazioni, della sensibilità, dello sguardo anche che il nuovo paesaggio di guerra provoca. Con questa irruzione dell'artificialità, il riflettore, non c'era niente di simile nelle guerre del passato. Una guerra che si combatte con strumenti di modifica proprio dello scenario naturale entro cui si svolgono i combattimenti. Certo, l'apice l'abbiamo visto in quella stravolta notte di fiaba di Baghdad, che è stata la terribile inaugurazione insomma della guerra del Golfo, in cui abbiamo visto questo cielo illuminato di luci, di razzi, di fuochi di ogni sorta, altro che il riflettore ungarettiano, ma insomma questo sconvolgimento delle percezioni usuali dentro questo nuovo paesaggio che la guerra crea. Ecco, lasciamo un attimo Mosse e lasciamo un attimo Lied e Fassel per porci alcune domande che da questi libri evidentemente nascono. Sono già fuori dal tempo? Perso un quarto d'ora. Quarto d'ora, me lo concedete ancora? Cerco di accelerare il ritmo. Domande anche queste che penso vi sarete già posti. Sì, va bene, ma insomma stiamo parlando di letterati, stiamo parlando di un'elite di colti, stiamo parlando di gente che aderisce al mito dell'esperienza di guerra. Ma insomma, per le grandi maggioranze, se stiamo parlando di una guerra che è nuova come fenomeno di massa, la cui caratteristica è appunto la mobilitazione di massa, che in molti paesi comportò la coscrizione proprio di tutti quelli che stavano in piedi sulle gambe e anche di qualcuno che non stava del tutto in piedi sulle gambe. No, come l'hanno vissuta questi? Qual è l'esperienza soggettiva della guerra di questi? E quali sono le categorie che abbiamo per entrarci dentro? Ecco, sono proprio i problemi che libri come quelli che vi ho nominato finora lasciano indubbiamente irrisolti. Partono da un presupposto giusto, che è la grande significatività di quello che poeti, intellettuali, ufficiali, letterati riescono a registrare. Però non si pongono in maniera adeguata, o se se lo pongono non hanno gli strumenti a disposizione immediatamente per rispondervi, di quanto di generalizzabile ci sia in questa esperienza, di cos'altro c'è dietro l'esperienza di guerra, l'esperienza di annullamento che sente l'intellettuale studiato da Lied, è la stessa di cui ci parlano i diari dei contadini. Ecco, questo è un problema molto complesso che adesso cerco di in qualche modo di affrontare, di porvi. Devo fare però prima un ultimo debito bibliografico e ricordarvi che accanto a questi libri in altra lingua e di studiosi di altra area c'è un grande corrispettivo italiano di questi studi sugli intellettuali e la guerra. Un libro che potrebbe essere, pur essendo piuttosto complesso, la guida ideale anche per una tesina da maturità, visto che qui ci sono molti studenti di quinta, o studenti che andranno in una quinta. Gli intellettuali e la guerra, i poeti e la guerra, i romanzi sulla guerra, la memorialistica di guerra, sono ottimi temi di ricerca, no? Esplorati tuttora fino a un certo punto. Tutta la cultura italiana ci è passata attraverso, perché prima abbiamo citato perché si fa svelti con i poeti, due poeti, ma potremmo citare, no, gran parte della ricerca letteraria di quegli anni come interessata, nel senso che produce sulla guerra, da Marinetti a Malaparte, da Jaillet a Palazzeschi, da Bacchelli a Soffici, da Clemente Rebora, per citare un autore caro al professor Bert che è qui davanti, a tantissimi altri, insomma, che non è nemmeno il caso adesso di allineare tutti. C'è un grande libro che studia uno per uno, con una finezza e una ricchezza di strumenti di analisi straordinari, questi percorsi, e il libro è ormai antico perché è del 1970, si intitola Il mito della grande guerra, l'autore Mario Isnenghi, il libro è stato ripubblicato l'anno scorso ed è veramente, secondo me, un classico di grande altezza, un libro che richiede un certo impegno, ma che ha anche il grande pregio che si può leggere, come tutti i libri di questo mondo, a pezzi. Lo dico per non scoraggiare nessuno, l'elenco dei libri che si fanno non vuol poi dire che questi libri devono, no, gravare sulla testa, oltre che sul tavolo delle persone in tutta la loro mole, si possono leggere molto vantaggiosamente anche tre capitoli di un libro e portare a casa degli ottimi risultati. Ecco, però, vi ho detto, lascia in parte insoddisfatti questa restrizione sociale elitaria di questi studi. Ci sono almeno due filoni nuovi che si sono praticati soprattutto in Italia sull'esperienza di guerra dei soldati e che invece fuoriescono da questa limitazione, suggerendo possibilità nuove possibilità nuove che fino a qualche tempo fa avrei detto sono ancora tutte da utilizzare. Ma dopo l'uscita di questo bellissimo libro di Antonio Gibelli, edito da Bollati Boringhieri, L'Officina della Guerra, questo è proprio fresco di stampa, nel senso che ha 3 mesi di vita, direi che questi filoni sono già sfociati in un primo grossissimo risultato, in un libro che ci dà materiali molto ricchi sull'esperienza di guerra, utilizzando, adesso vi dico che cosa, in che senso, 2 filoni. Un primo filone, le fonti di quegli indagatori di mestiere dell'esperienza di massa della guerra, che sono i medici e gli psichiatri. Come dimostra ampiamente il libro di Gibelli, una delle caratteristiche nuove di questa nuova guerra è l'enorme produzione di interventi sanitari e di gente che viene fatta oggetto di questi interventi. Per molte ragioni, anche per i progressi stessi della medicina, no? I feriti venivano abbandonati nelle guerre del passato sui campi di battaglia, in molti casi si seppellivano quando tutto sommato non era neanche deciso che fossero morti. Questo, per la verità, accade anche nella prima guerra mondiale, ma insomma, no? Migliaia di feriti che poi morivano per le infezioni, per le setticemie, per la impossibilità di essere adeguatamente curati. Ecco, questo nella prima guerra mondiale non fosse altro perché a un certo punto di soldati c'è anche bisogno, c'è bisogno di ributtarli di nuovo nella mischia. Non accade, la medicina e l'organizzazione sanitaria sono diventate qualcosa di anche istituzionalmente, no, enormemente più importante nella vita della società. E quindi ci sono sia i medici utilizzati in questo, sia i medici utilizzati per studiare queste forme nuove della produzione della guerra, che sono i matti, i traumatizzati, e quelli in qualche modo traumatizzati psichicamente dalla guerra, e poi quelli traumatizzati fisicamente, i feriti e poi invalidi o meno. I feriti che vorrebbero diventare invalidi per non avere a che fare più con la guerra. Quindi il medico è nello stesso tempo quello che cura, ma quello che deve anche poliziescamente stabilire se davvero il soldato non è più utilizzabile per la guerra come lui magari vorrebbe, no, desidererebbe che fosse. E quindi ci sono i migliori talenti della medicina e anche delle scienze sociali, della psichiatria, della psicoanalisi stessa, impiegati per cercare di capire, per esempio, se quelli che la guerra ha fatto diventare diversi, irregolari nei comportamenti, no, sono così irreversibilmente o meno, se lo sono perché prima erano già tarati, come voleva, no, la prevalenza delle teorie basate sull'ereditarietà nella psichiatria di quei tempi, o se invece la guerra specificamente non ha indotto nelle loro teste questo terribile disordine, quelli che fanno sul serio e quelli che fingono. Quelli che fingono perché ormai sono diventati così malandati da non poter far altro che fingere, non sono più capaci di far altro che questo. Cioè, si complica terribilmente il lavoro del medico, ma in questo lavoro produce anche una infinità di materiali, di documenti che oggi ci permettono di leggere con un occhio straordinariamente ravvicinato ciò che la guerra effettivamente produce anche nella testa, oltre che nei corpi spesso sconciati e mutilati, ma nella testa altrettanto drammaticamente messa in disordine. Io dopo, se arrivo, dubito che non farcela, ma insomma vorrei leggervi una poesia di nuovo molto bella. Anzi, lo faccio subito, così entriamo dentro nel vivo della questione, di un poeta inglese che è una delle voci più alte della letteratura della Prima Guerra Mondiale, che si chiama Wilfred Owen. Owen era poco più che un ragazzo quando andò volontario a combattere nella prima guerra mondiale, era del 93, morì nel 18, il 2 novembre del 1918, un destino veramente beffardo. La notizia della sua morte giunse ai suoi genitori l'11 novembre del 1918, cioè il giorno per gli inglesi dell'armistizio, 25enne quindi, se ho fatto giusti i conti. Poeta di grande talento, che ha rappresentato la sua esperienza di guerra come una sorta di viaggio all'inferno. Voi vedrete nel testo che vi leggo adesso proprio un andamento in qualche modo dantesco. Questo testo, ai toni forti, si intitola Casi mentali. Chi sono costoro? Perché siedono qui al crepuscolo? Perché mai dondolano ombre purgatoriali, la lingua penzoloni da mascelle che sbavano il pasto, scoprendo denti che ghignano come perfidi denti di teschi? Fitte su fitte di dolore, ma quale lento panico cerchiò di tali abissi le loro logore occhiaie. Dai loro capelli, dal palmo delle mani, trasuda infinita miseria. Certo, siamo morti dormendo e ora attraversiamo l'inferno, ma chi sono queste creature infernali? Sono uomini ai quali i morti hanno rapito la mente. La memoria fruga omicidi nei loro capelli. Ne hanno visti di omicidi in massa. Guardando pantani di carne, questi inermi vagano, calpestando sangue da polmoni che amavano ridere. Per sempre sono dannati a vedere e sentire cannoneggiamenti, muscoli che volano a brandelli, supreme carneficine e spreco d'uomini troppo fitti ammassati per districarli. Se le loro pupille arretrano torturate fin dentro il cervello, è perché ai loro occhi il sole pare una macchia di sangue, nera di sangue la notte. L'alba si schiude sanguinante come una ferita fresca. Perciò le loro teste vestono l'ilare, orrida, terribile fissità dei finti sorrisi da cadavere. Perciò le loro mani si stringono l'una all'altra, impigliandosi ai nodi delle loro sferze. Germendo noi che li colpimmo, fratello, scalciando noi che demmo loro morte e follia. È un testo, come vedete, di grande intensità, molto carico, con questi toni volutamente un po' espressionisti, che però ci richiama a questa specie umana nuova che la guerra produce, no? I traumatizzati dai bombardamenti, i soldati che a un certo punto smarriscono ogni orientamento, quelli di cui ci raccontano molti di quei libri di cui si diceva prima, che a un certo punto si muovono tra le due linee senza più capire nemmeno quale è la loro, che si sperdono nei boschi, o come quel soldato trentino di cui ho scritto di recente un profilo, a un certo punto prendono il fucile, lo spezzano, si avviano verso casa convinti che qualcosa è finito, no? C'è questo Domenico Chizzali che faceva il soldato in Bucovina, a un certo punto niente, prende, va alla stazione ferroviaria a chiedere il biglietto ferroviario per Rovereto perché lui deve tornare dalla mamma, Per quanto dopo cerchino di spiegargli che ha fatto qualche cosa di grave, non lo capisce, fino a quando lo portano alla fucilazione. Perché poi il destino di questi uomini che fuggono alla guerra è un destino, no, molto crudo. Da una parte c'è il manicomio, dall'altra c'è il plotone d'esecuzione. Bisogna sperare che il responso sia per il manicomio, ma il manicomio a sua volta è l'ingresso in una condizione umana nuova dalla quale non è poi facile uscire. Quantitativamente si può dire che questa esperienza della follia sia molto incidente, ma ha ragione Gibelli nel dire nel suo libro che non è tanto questo l'elemento determinante. Questa follia diventa una chiave di lettura dell'esperienza più larga, perché si accompagna a tanti altri fenomeni paralleli: la smemoratezza, il desiderio di fuga nelle sue molte forme, l'autolesionismo, la simulazione, la deserzione, che pure non è un fenomeno diffusissimo quantitativamente, perché il rischio cui espone è enorme, ma in certi fronti fu invece anche massiccia. Sul fronte orientale, dove c'era più movimento e meno controllo, la deserzione fu spesso anche fenomeno di massa. E si possono raccogliere anche nei taccuini dei soldati un grandissimo numero di storie di diserzione individuale e di massa. È l'altra faccia dell'esperienza della guerra. Guardate, nel libro di Gibelli, non contrapposta banalmente alla precedente, anche uno che fino al giorno prima ha combattuto da valoroso è capace il giorno dopo di a un certo punto smarrirsi e non essere più capace di rispondere alla situazione. O viceversa, quello che sembrava eroico la settimana prima, perché andava verso le linee nemiche, con area assolutamente disinvolta, come se non gliene importasse nulla, no, delle pallottole nemiche, è lo stesso che la settimana dopo, no, con la stessa disinvoltura, torna all'indietro, come non gliene importasse nulla delle pallottole, come si dice ipocritamente, amiche, che potevano venirgli per aver disertato il posto. Cioè, questi fenomeni di smarrimento, di dissociazione, hanno una loro grande diffusione quantitativa, ma soprattutto sono importanti nell'analisi di Gibelli come una sorta anche di, non metafora, di indizio di uno stravolgimento più generale delle percezioni, delle sensibilità e delle coscienze, che, oltre che dei corpi, che la guerra porta con sé. E quindi in questo caso queste fonti mediche, psichiatriche diventano interessantissime per poter capire molte cose di questa esperienza di massa. Adesso dove vado svelto, c'è un secondo filone di cui siamo stati in qualche modo tra i protagonisti, il piccolo gruppo che si appassiona di queste cose a Rovereto intorno alla rivista Materiale di Lavoro, e uno dei poli del quale lavoro è diventato il Museo del Risorgimento di Trento, dove abbiamo insediato una vera e propria struttura di ricerca e di lavoro su queste cose, che si chiama Archivio della Scrittura Popolare, è lo studio della grande massa di scritti dei soldati. La guerra è fenomeno di massa anche da questo punto di vista. Un popolo, i popoli, con consuetudine anche limitata con la scrittura, o come quello italiano, con larghissima fetta ancora di analfabeti, nella sollecitazione potentissima della guerra, no, producono milioni di lettere e cartoline, epistolari apparentemente poveri, ma che studiati con un occhio attento diventano una fonte di eccezionale qualità. E su questo torno dopo. E più limitatamente come quantità, ma di straordinario interesse per la quantità, anche le produzioni propriamente autobiografiche dei soldati contadini e semi-analfabeti. Vi ho citato nelle prime battute di questo incontro un diario di un maestro, ma vi ho detto anche che diari di quel genere o agende di quel genere ne hanno scritte tantissime in grande numero, apparentemente povere in molti casi, però straordinariamente ricche come documento, messe insieme comunque eccezionali come documento culturale e storiografico. Agendine, diari, memorie di protagonisti comuni della guerra. E incrociare poi questi testi può produrre effettivamente un'immagine nuova dell'esperienza di guerra. Gibelli lo fa facendo un'operazione che retoricamente definisce da una bella citazione dello scrittore austriaco Arthur Schnitzler, il quale a un certo punto, no, protestando contro la retorica della guerra, dice: ma andate a chiedere cos'è stata la guerra ai reduci e alle vittime, andate a chiederlo ai medici che hanno curato queste vittime degli ospedali, andate a chiederlo, no, ai poeti. E questo fa appunto Gibelli, va a interrogare attraverso i loro scritti. Si potrebbe fare anche attraverso le fonti orali, ma lui in realtà lo fa attraverso i loro scritti, appunto, i reduci, i protagonisti comuni, i medici e le fonti psichiatriche, la letteratura, e queste testimonianze incrociate tra di loro producono veramente una descrizione molto ricca dell'esperienza di guerra, dentro cui stanno alcune cose che già vi ho detto, due fondamentalmente, tre facciamo. Prendendo i titoli dei capitoli. Uno, questa tensione di massa verso la fuga, che non è necessariamente la fuga fisica che riguarda minoranze, ma una fuga spesso verso l'interno, no? Il fratello di quel disertore fucilato di cui vi ho parlato prima ha scritto una memoria per riabilitarlo, straordinaria, in cui dice: per il fratello e per sé il soldato si comporta come la lumaca, si chiude dentro il guscio per proteggersi da un'aggressione, no? Che è non soltanto quella del bombardamento, ma quella del bombardamento sensoriale e di doveri, di impulsi che gli vengono dalla guerra, e si fa come una corazza dentro. Anche questa è una fuga, come lo è la diserzione, come l'autolesionismo, come lo è la simulazione, il tentativo di svignarsela o di imbusarsi in qualche maniera, come fanno altri. Seconda cosa, la guerra come, no, dilatazione gigantesca degli effetti della tecnologia moderna sull'organizzazione dello Stato, sull'organizzazione dell'esercito, ma anche sul singolo. L'officina della guerra, dice Gibelli, parlando del soldato di massa come una figura analoga all'operaio di massa, dove la spoliazione dell'individualità è regola. Regola perché funzioni bene la produzione. Una specie di taylorizzazione del soldato. Terza cosa, questo stravolgimento delle sensazioni, siano quelle auditive, la guerra è innanzitutto terrificanti rumori. Il cannone che fa zio zio e le bombe a bombare, dice un contadino della Vallarsa nel suo diario Naif, ma poi il trauma dei bombardamenti, e detto tra parentesi, ho voluto evitare irruzioni eccessive dell'attualità, ma io credo che quei soldati iracheni piegati ed umiliati sono stati piegati ed umiliati in primo luogo proprio da quei rumori, oltre che dalle bombe che gli sono capitate sotto la testa. I medici della Prima Guerra Mondiale dicevano che non si può stare un mese sotto i bombardamenti e conservare la testa sana. E un'ultima cosa, ci dice Gibelli, interessantissima. Il soldato vive questa esperienza come se assistesse ad uno spettacolo. Protagonista, ma nello stesso tempo spettatore attonito di uno spettacolo nuovo. La guerra è, no, nello stesso tempo anche già una sorta di rappresentazione di se stessa. La metafora il teatro di guerra, che viene così usata nel giornalismo e nella anche descrizione politico-militare, si può dilatare. C'è effettivamente qualche cosa, come se assistesse ad una sorta di stranissima rappresentazione, parla Gibelli della dissociazione, per esempio, tra suoni e luci, no? Questo essere lì continuamente a spiare. Non parliamo poi di nuovo della guerra aerea, che non compare in questo libro ma compare nell'esperienza successiva, dove l'occhio della guerra è tutto rivolto verso l'alto per continuamente guardare e spiare che cosa accade, questa guerra che si svolge sopra le nostre teste, come dice anche qui una memoria popolare della Seconda Guerra Mondiale. E quindi, ecco, l'impressione di essere nello stesso tempo dentro un qualche cosa di vero e dentro un qualche cosa di rappresentato. La guerra che è nello stesso tempo evento reale e rappresentazione. Anche qui, quando si è detto di questa guerra del Golfo, che non siamo stati più capaci di distinguere quanto appartenesse all'esperienza reale e alla sua rappresentazione, ormai televisiva e pervenuta in ogni casa, si è detto qualcosa che centuplica, che moltiplica qualche cosa che già c'era nell'esperienza dei testimoni della Prima Guerra Mondiale. L'impressione, come diceva il contadino toscano Capacci nel suo diario, di essere al cinema. E nello stesso tempo la consapevolezza, già allora, dei signori della guerra, che è possibile, no, intrecciare alla guerra reale questa sua rappresentazione esterna, per cui è molto complesso nell'andare alla ricerca di questa esperienza della guerra districarsi tra autenticità e rappresentazione, e bisogna comunque studiare l'una e l'altra. Ecco, io mi fermerei qui, avendo cercato di buttarvi lì molti temi, io spero in maniera non troppo condensata.